La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti. L'articolo 61 riguarda il tempo delle elezioni. La Costituzione impone che dal termine della legislatura, cioè dalla fine delle precedenti Camere, si voti in un tempo rapido. Infatti bisogna votare entro 70 giorni dal termine della legislatura e le nuove Camere debbono riunirsi necessariamente nei 20 giorni successivi. Una curiosità riguarda la corretta individuazione dell'inizio e della fine della legislatura. Cioè, la legislatura inizia col voto o con l'insediamento delle Camere? Sono due tesi che si sono entrambe confrontate e che differenziano di circa un mesetto. La tesi prevalente e la tesi più condivisibile è quella di ritenere che la legislatura inizi con l'insediamento delle Camere, perché da quel giorno che i parlamentari hanno realmente le proprie funzioni. Per cui il termine della legislatura sarà nel momento in cui si compiranno 5 anni dalla prima riunione e in genere entro quella data dovrà esserci la riunione delle nuove Camere. Ma cosa accade fra lo scioglimento delle Camere, la fine della legislatura e l'elezione delle nuove? Accade che resta in carica il vecchio Parlamento. Questo probabilmente ci interesserà nei prossimi mesi, in quanto le attuali Camere scadranno a metà marzo e si voterà più o meno nei mesi di marzo e di aprile, per cui le nuove Camere entreranno in carica qualche settimana dopo. In tutto questo periodo il Parlamento uscente, il vecchio Parlamento, resta in funzione e resta tuttavia con una forma di prorogatio, cioè, come recita l'articolo 61 secondo comma, finché le nuove Camere non si siano riunite sono prorogati i poteri delle precedenti. Tuttavia questo periodo di prorogatio è un periodo particolare, in quanto si ritiene che le Camere uscenti non hanno la pienezza dei propri poteri, ma debbono soltanto svolgere l'ordinaria amministrazione e le attività urgenti. Del resto è impensabile che nel periodo di prorogatio, cioè nel periodo che va verso le nuove elezioni, il Parlamento possa ad esempio presentare nuovi disegni di legge o iniziare nuove attività di inchiesta o di verifica, in quanto ovviamente sono Camere che stanno per scadere. Ma tuttavia deve sempre essere in carica e presente un Parlamento. E questo è necessario per tutti gli organi costituzionali che, in attesa del completamento della nomina del nuovo organo, hanno la piena prorogatio dell'organo precedente, che resta in carica fino all'insediamento reale del nuovo.